24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. You check my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wheel, but what a thrill. Couldn't it rage it with all the fire. Non potevo che iniziare così oggi. Great balls of steel, of fire, not of steel, of fire. Vabbè, a parte il salto indietro degli anni, insomma, le Balls of Steel di Enrico Letta sono diventate già, come dire, mantra. Praticamente di ieri non si parlava d'altro, almeno nella rete, no? Queste persone su Twitter. Enrico Letta è andato in Irlanda, ha fatto un'intervista all'Irish Times e quando gli hanno chiesto ma che pensa di lei l'Europa, la traduzione del giornalista irlandese è: beh, dicono di me che ho le balls of steel, le palle d'acciaio. Poi ieri in serata Letta ha detto: ma no, ma io ho detto solo che ho gli attributi, e quello lì ha tradotto così. E vabbè, insomma. Chissà com'è andata. Vabbè, comunque voglio subito salutare Miriam Lucchetti in redazione. E anche il nostro alpino, Peter Bescapè. E apriamo subito il nostro Parlamento. Evviva, evviva! Dove oggi troviamo intanto Nicole, come sempre. Intanto troviamo Matteo Salvini della Lega. Buongiorno Salvini. Buongiorno, ecco. Da Corso Sempione, cos'è? A picchiettare la sede della RAI, no? No, sto sperando di arrivare dal benzinaio di Piazza Firenze perché sono in riserva sparata. grandi temi assolutamente. Se siete in zona andate ad aiutare Matteo Salvini da Piazza Firenze con la tanica. Beh, Piazza Firenze è all'inizio di Corso Sempione, per cui insomma, faccio il tassista. Saluto anche con noi due volte questa settimana, dobbiamo recuperare Albertone Forchielli. Buongiorno Forchielli, come va? Buongiorno. Dove si trova nel suo peregrinare? No, sono a casa, Imola. A casa, oh, casa Italia. Ha sentito allora le Balls of Fire, Balls of Steel? Letta deve stare con quelle palle di ferro, deve stare molto attento ai magneti e all'alta tensione. Se no ci rimane attaccato come quello di Goldfinger sul film di 007 che aveva la mandibola di ferro. Ah, già, è vero, sì, il mitico. Poi, ragazzi, se gli girano le palle di ferro in Parlamento, si narra già di politici che stiano comprando i tappi per le orecchie? Abbastanza, sì, perché girano le balle. Ma qua abbiamo uno che con il cielo durismo, insomma, ha qualcosa a che fare, Salvini. Adesso non potrà mica dire niente sulle palle d'acciaio. Voi ci avete costruito una carriera, una parte della vita con il cielo durismo, Salvini. Piace questo Letta? Però Bossi ai tempi aveva il physique du role, era credibile associare la faccia di Letta e soprattutto le azioni di Letta alle palle d'acciaio. Viene da ridere o viene da piangere, quindi ieri ero a Bruxelles mentre era uscita la notizia ed ero a un convegno dove si parlava di quanto l'Italia stia spremuta dall'Europa che ci sta massacrando, e sono uscite le palle d'acciaio e una fila si è messa a ridere. Che fila di chi? Di che nazionalità erano questi simpaticoni? Non lo so, non glielo sono andato a chiedere. Erano distinti signori in giacca e cravatta, stavamo parlando dei problemi delle importazioni, delle esportazioni, dell'acciaio, di quanto ci stiano fregando anche su questo tema, e sono uscite le palle d'acciaio. Ah, per quello, quindi sì, capito. Noi si avevano le palle fumanti più che le palle d'acciaio. Capito Forchielli, è arrivato questo dispaccio d'agenzia in Europa proprio mentre discutevano d'acciaio, quindi le palle d'acciaio di Letta, questo è. Forchielli, dobbiamo aggiungere qualcosa su questo capitolo, possiamo passare oltre. Ma adesso secondo me si dice anche che Louis Vuitton dopo il preservativo si mette appunto a produrre tappi per le orecchie perché vede un grande potenziale in questo settore. Del resto, se lui ha le palle d'acciaio, gli italiani ce le hanno di titani a sopportarlo. Dice. Voglio dire, andiamo al sodo. Cioè, adesso Salvini ha dato una carotatura istituzionale, io invece voglio dipingere le conseguenze, capito? Conseguenze popolari di questa affermazione, perché di drastico, ossia di importante, Letta non ha fatto niente se non appiattirsi sulle richieste del PDL. Gli viene attribuito questo merito di aver mandato a casa Berlusconi, ma diciamo che Berlusconi gli errori li ha fatti da solo, ecco. Ha avuto pazienza, Letta, sì, ha cucito bene. Ma non ha fatto niente. Però voglio dire, faccio fatica a pensare a un Letta coraggioso, posso pensare a un Letta paziente, ok? Okay, davvero però, da democristiano. È la migliore scuola, intendiamoci. È la migliore scuola. Salvini è la migliore scuola della Democrazia Cristiana. Non ho detto che è la migliore scuola in assoluto. È una buona nell'ambito scuola. Nell'ambito della Democrazia Cristiana ci sono varie scuole. Lui appartiene a una delle scuole più sofisticate, diciamo, più preparate. Eccola lì, Salvini. Quindi beccatevelo così, insomma. Paziente, il paziente Letta. Sentirmi dare del democristiano è sempre stato il peggiore insulto che mi possa essere dato in 20 anni di attività più o meno giusta comunque di politica. E in questo momento c'è bisogno di tutto fuorché di democristianeria. Servirebbe sì qualcuno con le palle d'acciaio, servirebbe qualcuno con coraggio da vendere che fa qualcosa di giusto e rivoluzionario, ovvero sia tagliare del 10% la pressione fiscale. Oh, ecco, come vedere che succede e vedere l'effetto che fa. Intanto vedere l'effetto che fa, che non ci sono soldi se si taglia. Però è interessante questa cosa. Forchielli, come la vede? Potrebbe essere una soluzione tagliare del 10% la pressione fiscale, che succede? Andiamo gambe all'aria? No. Sarebbe una grande scommessa perché ovviamente il deficit andrebbe su e andrebbe su anche il debito sul PIL, però qui ci sono due scuole di pensiero, una scuola che dice sì, tentiamo questo colpo perché dopo la crescita economica riassorbe questo deficit temporaneo, e invece una scuola di pensiero che dice con un debito che ti schizza al 140% sul PIL non è più possibile nessuna crescita. Non serve a granché. Comunque. Io in quest'ultimo periodo mi sto convincendo che questa strada, la strada intrapresa, non ci porta a nulla. A nulla, molto bene. Sentiamo Brunetta sulle Balls of Steel di Letta. Brunetta su Letta. Ho preso ovviamente sul ridere l'affermazione di Letta e ho risposto con un'altra battuta. I lavoratori dell'Ilva probabilmente quelle stesse palle d'acciaio gliele fonderebbero all'istante. E devo dire, e lo dico adesso con un po' più di serietà, ha fatto bene a fare questa affermazione Letta, perché in momenti così difficili servono proprio palle d'acciaio. Gliele fonderebbero all'istante gli operai dell'Ilva. Vabbè, questa è la battuta di Brunetta. Allora, sentiamo anche Renzi sul caso Cancellieri, di cui ci siamo occupati qualche giorno fa. Renzi sul caso Cancellieri, poi voglio capire se Forchielli ha cambiato un po' idea su Renzi, tra poco. Renzi. Credo che sia inaccettabile che sia andato a finire così. Se io fossi stato il segretario del PD non avrei difeso la Cancellieri, e credo che avrebbe fatto un servizio al paese se si fosse dimessa. Insomma, parole molto chiare, Forchielli. Allora, Renzi ha cambiato un po' idea in meglio oppure rimane sempre della sua idea? No, io sono guardi, sull'affermazione di Renzi, 5 Stelle e Lega, io sono sempre abbastanza allineato. Il problema è che poi dopo non vedo una politica coerente, convincente, non vedo le persone che poi possono portare avanti questa politica coraggiosa. Vabbè, questo paese ingessato che ha bisogno di cose veramente drastiche, per cui vedo sti folletti che fanno queste affermazioni velleitarie, però poi dopo andare a Roma immersi nella burocrazia romana e in tutti gli amenicoli, i regolamenti e tutto, cercando il consenso di un popolo che tutto sommato non ha più voglia di soffrire, simpatizzo con le affermazioni, però guardo con grande tristezza alla quasi impossibilità di realizzare programmi veramente coraggiosi. Per sbloccare il paese. Però vede Renzi, Lega e Movimento 5 Stelle, Salvini vi ha messo insieme, cioè vede, questo è l'ambito abbastanza ampio, devo dire, di forchielli, di punti di riferimento. Salvini, c'è anche la Lega, però. Ringrazio per il riconoscimento di essere quantomeno formalmente nel giusto, poi nel non riuscire a trasformare in realtà quelli che sono i proponimenti è uno dei nostri principali limiti e una delle principali critiche che viene mossa a noi e alla politica in generale. Ne sono perfettamente consapevole, quindi ormai la gente non scherza più. Torno al taglio delle tasse. Sì. Quando sai che se vai dritto sbatti contro un muro fra 20 metri, mentre a destra c'è una curva a gomito e non sai dove vai, i casi sono due: o vai dritto e ti schianti contro il muro, oppure provi a girare a destra. Io proverei a girare a destra, se so che da 10 anni a questa parte mi dimostrano che le politiche economiche di rigore, di austerità, di taglio dei salari, taglio delle pensioni, mi portano a schiantarmi. Provo a girare a destra. Peggio non mi può andare sicuramente, magari mi va pure meglio. Magari meglio. Vabbè, intanto andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi vorrei capire sia quello che succede all'interno del PDL, ma sia dall'economia. Oggi Saccomanni, arrabbiato, prende carta e penna, scrive al direttore di Libero per dire: hai frainteso tutto. Libero dice: va cacciato questo ministro dell'economia. Insomma, sta facendo bene o sta facendo male? 24 mattino. Caro Milan, puntuale come il vaccino antinfluenzale, è tornato Bruno Vespa con il suo libro di Natale. Vorrei dire al signor Berlusconi che nella Bibbia c'è scritto: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. E quel Signore non è lui, è un altro. La Cancellieri in questi giorni si fa operare ad una spalla. A me questo intervento mi sembra un po' troppo capitato a Fagiolo. Ma perché non ti occupi di esodati, di carcerati, di disoccupati, di malati? Pronto Anna Maria, so il paese. Ti vuoi cavarti dai coglioni? Abolire la politica. Fine delle soluzioni. Abolire la politica. Gli italiani sono disperati. Sì, perché gli mancano i soldi per arrivare a fine mese, ma soprattutto per il livello di ingiustizia che abbiamo raggiunto. Questi quattro disgraziati che ci governano arrancano il diritto di sbagliare e di autoassolversi, e noi qui come dei cretini a stare lì a guardarli sempre su quella sedia. Milan, ricorda a Ezio Mauro che la carta costa, 3 pagine per la tomba di Priebke, la carta costa. Allora, a Berlusconi le facciamo fare il badante alla Rosi Bindi. Vedi che i privilegiati dalla stampa massacrati, poveracci, sono stressati come più dei deportati. Chi lo fa sto paragone? Sempre il solito infamone. Eccolo lì, lo stornellator cortese ha colpito ancora. Allora siamo con Matteo Salvini, con Alberto Forchielli. Quello che Salvini, quello che ha detto, sul paese. Io non l'ho capita questa se il paese me lo chiede. Chi è Giorgio Paese, Antonio Paese? Non si è mai capito. Sto mettendo sul podio i primi 3 ascoltatori e quello... cavate dai coglioni, quello era il primo. Sì. Perché quello sarà dalle parti venete, no? Sì, cavate sì, assolutamente. E poi l'altro, però, all'estremo opposto, abolite la politica. Sì, sì, è fantastico. Abolite la politica. Governiamo a sorte. C'è la buona politica e c'è la politica infame. E poi, ma ancora questo Berlusconi, adesso con tutto rispetto, ci stiamo governando insieme, Piemonte, Lombardia e Veneto, mi stupisce che ci siano ancora così tanti ascoltatori che argomentano, attaccano, Berlusconi, che arrovellano su Berlusconi. Vediamo, non so, Forchielli, quanto occupa nella sua testa Berlusconi durante le 24 ore? Ah no, adesso basta, c'è giusto questa roba qui di Forza Italia 2.0, che mi sembra, non mi sa che stavolta gli fanno un bucio col culo nero, cioè, non ne viene fuori, per me Berlusconi è sepolto, beh, addirittura e anche sepolto. Fuori dall'Italia, ho visto anche le ultime elezioni, io credo che per l'igiene morale del paese dobbiamo dimenticarlo, vabbè. Allora, Saccomanni invece, allora sto Saccomanni, Forchielli, che dice, lo vede un bell'uomo in saldo al comando, che sa dove si taglia, sa dove si recuperano i soldi delle tasse, com'è? Dunque, Saccomanni è una bravissima persona, esperta, rispettata, però io non so perché continuiamo a mettere questa gente a tesoro, mi riferisco anche al povero Padoa-Schioppa, mi riferisco, e alla fine finisco con far figura un po' da pirla. Perché il sistema è tale che anche se tu metti la migliore delle persone, viene poi inghiottito da un sistema mediatico, politico. Cosa vuoi? Ridurre l'uso del contante va bene. Per piantare una nuova bandierina sulla nuova fiscalità, spesometro, ditometro, nuovo scudo, tasse. Alla fine siamo stanchi, di inculate, si è preso in giro. Che la bandierina la pianti su chiappa 2, capito? Non su chiappa 2, su chiappa 2. Cos'è il chiappa 2? Perché è il suo obiettivo, capito? C'è chi è andato su chiappa 2 e lui vuole andare su chiappa 2, capito? La chiappa 1 me l'ha già fottuta, adesso mi tocca il chiappa 2, con quello ha fatto la play. No, Salvini, non c'è più l'età per fare il K2, lui fa il K2. Salvini, insomma, ho capito che il K2 siamo un po' tutti noi. La K1 ce la siamo già giocata. Il K2 è la prossima. La K1 e tre quarti ce l'ha portata via Monti. Comunque, questa la riuso. Ma Saccomanni mi ha del becchino, comunque, di quello che va a tirar su quello che resta il cadavere. Addirittura. Se non rimuoviamo il problema a monte, sopra la testa, e io sto finendo in questi giorni un libro che consiglio a chi ci ascolta a quest'ora bizzarra del mattino, che è Il tramonto dell'euro del professor Bagnai. Se non ci togliamo la palla si chiama Camicia di Forza Euro, ma neanche, non Saccomanni, ma neanche Gesù Cristo riesce a rimettere i conti a posto. Eccoli, la vera palla d'acciaio è l'euro per Salvini, evidentemente. Assolutamente, ma non per Salvini, per tanti economisti che non hanno le fette di salame sugli occhi e che non fanno parte di quel mega squadrone degli europirla, che in base ai quali siamo nelle condizioni in cui siamo. Sarà la nuova di sfida europea. Ma Salvini, non ho capito, si candida o no alla segreteria? Tutte le volte glielo chiedo, ma no, si candida o no alla segreteria della Lega, Salvini? Ma secondo lei sono discorsi da fare alle 6:54 della mattina. Ma c'è una risposta o no? Dovrà decidere o no? Mancano meno di... Riesce a tenere il fiato sospeso col popolo degli ascoltatori fino a lunedì? Ah, attenzione, lunedì l'annuncio. Ho sbagliato il giorno in cui dovevo chiamare Salvini. Porca miseria, abbia sbagliato tutto. Faccio la telefonata alla segreteria telefonica domenica pomeriggio. Va bene. È arrivata al benzinaio? Tutto a posto? Ho fatto durante il traffico 50 euro di diesel, che a Milano è quotato 1,679. Vabbè. Allora vi ringrazio, buona giornata, grazie Alberto Forchielli. Lunedì, Forchielli, lo porto in TV, vero Forchielli? Sì, viene, in TV su 7 Gold lo porto lì, Forchielli. Grazie anche a Matteo Salvini, alla prossima, Giornale Radio.

Sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qua per parlare di che cosa? Beh, mercoledì scorso hanno approvato i bilanci di Camera e Senato. Oggi, guardate, i giornali sono pieni, se volete, di articoli al riguardo, anche cose di colore. Per esempio, scoprire che al Senato si spendono a bilancio 2 milioni di euro all'anno per spese di rappresentanza. In ogni caso, il Sole 24 Ore oggi ha un altro dato interessante: si spende sempre di più alla Camera e al Senato in vitalizi, cioè le pensioni degli ex parlamentari, complice il fatto che quest'anno si è andato a votare, quindi 237 parlamentari non sono più in Parlamento e vanno a ingrossare così le fila di coloro che hanno diritto al vitalizio. Il risultato: alla Camera si spende l'1,63% in più rispetto all'anno scorso in questa voce e al Senato il 6,22% in più. Insomma, come titolava ieri Panorama, la sensazione è che la copertina di Panorama è gli italiani a dieta e la casta si ingrassa, cioè che il paese sia sempre più diviso in due: loro, i super pagati, e leggo sempre il titolo di Panorama, e noi, i malpagati, perché dipendente medio di un'azienda italiana guadagna 1.500 euro netti al mese. E mentre sappiamo che le cifre della politica sono ben altre, ne vogliamo parlare con il professor Roberto Perotti, che insegna economia politica alla Bocconi, editorialista anche del Sole 24 Ore. Buongiorno professor Perotti, eccoci. Buongiorno. Così come voglio salutare il direttore del Giorno, Giancarlo Mazzucca, che ha avuto un'esperienza parlamentare. Direttore, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a lei. Di esperienza, come la vogliamo definire? In un aggettivo? Amara. Amara, ecco, ex Amara. Parlamentare del Popolo della Libertà, ci siamo subito capiti. Allora, professor Perotti, intanto, lei ha fatto una serie di studi anche pubblicati sulla voce.info, la stupisce questo aumento delle spese dell'organo, in questo caso della Camera? Mi pare di no, perché lei ha detto, nonostante gli annunci di tagli, questi tagli non ci sono per quel che riguarda le spese della Camera, è vero? Devo dire che c'è stata un'operazione mediatica da parte della Camera molto subdola. Essenzialmente quello che loro hanno fatto è confrontare le previsioni fatte nel 2011 per il 2012 con le previsioni per il 2013. Da questo punto di vista la spesa è scesa, ma nessun organismo al mondo, privato o pubblico, confronta le previsioni per il futuro, che è ovvio che ci sono solo le previsioni per il futuro, con le previsioni fatte in passato per il passato, perché abbiamo già i dati del 2012 e quindi da quello si vede che chiaramente nel 2013 le spese rispetto al 2012 aumenteranno e di tanto. Del 12%, se non sbaglio, lei ha scritto. Circa 100, tra i 120 e 70 milioni a seconda di cosa si voglia includere nelle spese della Camera. E allora cos'è? Ci hanno fregato, dice. Perché dice un'operazione subdola invece a far credere agli italiani che non è così? È stata un'operazione di vera disinformazione. Tra l'altro ci sono delle voci che nessuno mi ha ancora spiegato. La spesa per informatica aumenterà da 20 milioni a 40 milioni. E se ci pensa, in un organismo di 630 persone, aumentare la spesa corrente, non un conto capitale, per informatica di 20 milioni, già 20 milioni era una spesa enorme, da 20 a 40 in un anno solo nessuno è riuscito a spiegarmi che cosa se ne fanno di tutti questi computer e iPad. Non lo so, forse beh, c'è la dotazione degli iPad, tra l'altro qua lo chiederemo anche a Mazzucca come direttore di giornale e ex parlamentare. Però le vorrei chiedere anche questo, professor Perotti: immagino che quindi non la stupisca anche il dato pubblicato oggi dal Sole sull'aumento delle spese per pensioni, perché ci sono state anche le elezioni e quindi molti abbandonano dopo anni sugli scranni il Parlamento e quindi vanno a ingrossare la fila di coloro che vengono pagati e hanno diritto al vitalizio, e quindi quello è una spesa che incide molto, professor Perotti? Sì, quella incide molto. Bisogna dire che l'unica riforma vera che è stata fatta alla Camera nelle ultime due legislature, a parte piccole operazioni cosmetiche, è stata quella delle pensioni con il passaggio al contributivo. Purtroppo ci vorrà un sacco di tempo, credo di 10, 20 o 30 anni addirittura, per vederne tutti gli effetti, perché tutte le pensioni vitalizie, tutti i vitalizi acquisiti col vecchio sistema rimangono lì, quindi ci vorrà tantissimo tempo per vedere gli effetti della riforma delle pensioni, però quella è stata una riforma vera. E che, vabbè, ha riguardato tutti gli italiani, quindi lei dice ci mancherebbe. No, ma nel caso della Camera sono stati dei tagli molto più sostanziali rispetto al sistema di vitalizi precedente, che era scandaloso. Ah beh, è chiaro. E tra l'altro poi dalle 8:30 avremo anche un ospite, un ex consigliere regionale della Puglia, che ci racconta dove invece questo sistema ancora forse rimane in auge, perché varrà per il futuro le modifiche, sempre si dice sempre così, diritti acquisiti non si toccano. Allora io vorrei, questi alcuni dati dei tanti che il professor Perotti ha studiato, ma alcuni ce li ha già proposti, un altro lo aggiungo io: la spesa della Camera dei Deputati italiana è 2,5 volte quella per la House of Commons britannica, che ha più deputati per la verità, cioè peraltro. E Mazzucca, lei da direttore di giornale, di un giornale tra l'altro il giorno che racconta sempre quotidianamente la vita del paese, il mondo reale, delle persone che non ce la fanno, condivide, visto che è stato anche dentro al palazzo, questo titolo di Panorama: loro i super pagati e noi i mal pagati, oppure si rischia di fare un po' di demagogia? Io condivido quanto ha detto il professor Perotti, tra l'altro proprio in tempi non sospetti, prima ancora di diventare parlamentare, ho scritto un libro assieme ad Aldo Forbice che si chiama I Faraoni, in cui documentavo i costi della cosiddetta casta, sia per quanto riguarda Roma, sia per quanto riguarda le castine regionali, diciamo così. Effettivamente la casta costa molto, anche se, come ha detto Perotti, c'è stata una limatura abbastanza consistente per quanto riguarda i vitalizi, perché non solo si è passato il contributivo, ma prima i parlamentari percepivano il vitalizio addirittura a 50 anni, mentre ora invece devono aspettare 65 anni, quindi c'è stata una, diciamo così, una normalizzazione per quanto riguarda i vitalizi. Il problema di fondo è un altro, il problema di fondo è che i parlamentari italiani sono troppi, tra Camera e Senato sono tanti, e quindi la spesa incide in modo assolutamente drastico, senza considerare poi tutto il personale amministrativo che circonda sia la Camera che il Senato. Stiamo attenti però a non fare di ogni erba un fascio, nel senso che a mio parere il vero scandalo in questo momento non è tanto la Camera e il Senato, ma il problema sono le regioni, le amministrazioni regionali, questo è il vero problema. Abbiamo letto e continuiamo a leggere anche sull'edizione, appunto, sia sul Resto del Carlino ma anche sul Giorno, l'ultima vicenda dell'Emilia Romagna, ma insomma riguarda in realtà un po' tutte le regioni, no Mazzucchi? Sì, proprio oggi sul Giorno noi mettiamo in rilievo quali sono i redditi delle consigliere regionali della Lombardia e vediamo che le cifre sono assolutamente alte. Facciamo notare per esempio che almeno nel mio libro di qualche anno fa, il vicepresidente della regione Emilia Romagna percepiva uno stipendio superiore a quello del Presidente del Consiglio. Quindi noi continuiamo a dire queste cose da tanti anni, prima cominciavano Stella e Rizzo, poi subito dopo venimmo noi e altri, adesso il professor Perotti e altri ancora, e le cose non sono assolutamente cambiate, anzi aumentano. Il problema di fondo è che è uno scandalo come questi consiglieri regionali utilizzano i fondi, i rimborsi dati dalla regione, ma il vero problema non è tanto l'utilizzo, che è un problema grosso, e poi se ci sono anche degli aspetti giudiziari devono essere visti, ma il problema è che vengono dati troppi soldi. No, ma infatti è quello che dico io da giorni, cioè non è tanto come lo scandalo è come vengono utilizzati, ma lo scandalo è anche la disponibilità che ne hanno. Se insomma, perché c'è una disponibilità, anche l'uso sarà diverso. Io lo dico sempre, l'occasione fa l'uomo ladro, e quindi bravo, l'unica soluzione è drasticamente toglierglieli. Un dato, prima di andare anche in pubblicità, un consigliere, leggo da Panorama di ieri, un consigliere regionale incassa in un mese quanto un operaio guadagna in 6 mesi, un funzionario della Farnesina, cioè il Ministero degli Affari Esteri, prende il doppio di un direttore generale d'azienda, un elettricista della Camera a fine carriera prende più di un dirigente industriale. Insomma, professor Perotti, sono la fotografia di un paese spaccato in due, che poi in due quelli che stanno da una parte sono una piccola esigua minoranza, no? E tutto il resto è il paese molto molto diffuso. Sì, si diceva prima che il vero problema sono il personale della Camera dei Deputati, questo è vero, la Camera dei Deputati ha un sistema di progressione che non ha eguali al mondo. All'inizio si prende un impiegato, un parrucchiere, un qualsiasi lavoratore della banca della Camera prende circa 30.000 euro, ma già dopo 10 anni prende 100.000 euro quasi, dopo 20 anni prende una cifra spaventosa. C'è una progressione pazzesca che non ha uguali, non ha nessun motivo d'essere, perché queste persone verrebbero impiegate lo stesso. Non si tratta di licenziarle, ma si tratta di parificarle a tutto il mondo civile. Ma lì poi si entra in un discorso con le 13 sigle sindacali all'interno della Camera dei Deputati. Fermiamoci un attimo per la pubblicità, riprendiamo con Giancarlo Mazzucca, con Roberto Perotti e con anche gli ascoltatori. 800 24 00 24 per intervenire. C'è chi ci scrive: spengo se no vado a Roma con la ghigliottina, caro Daniele da Treviso. No, non spenga, prima di tutto perché mi fa dispiacere per un ascoltatore, e poi perché si informi, è meglio, poi magari vota nell'urna se c'è una legge elettorale nuova, per carità, più che andare con la ghigliottina, tanto lo so che non lo farà mai. Allora, le 8:37 minuti, eccoci qua. L'abbiamo titolata questa puntata Vacche magre, casta grassa. Insomma, l'idea è di un paese spezzato in due tra le paghe, gli stipendi medi dei lavoratori e quelli del palazzo. Così almeno raccontava ieri anche Panorama. Ne stiamo parlando con il professor Roberto Perotti, che insegna economia politica alla Bocconi, con il direttore del Giorno Giancarlo Mazzucca. Ci ha raggiunto anche un altro ospite che saluto e da cui vado prima darò però la parola agli ascoltatori. Si tratta di Patrizio Mazza, che è direttore dell'unità operativa di ematologia a Taranto, è stato però consigliere regionale in Puglia. Buongiorno dottor Mazza, grazie per essere con noi. Buongiorno. Sono da lei tra un attimo, prima sentirei gli ascoltatori. Ornella da Milano ci chiama. Ornella, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere a questi signori qua o a lei quanto guadagna quel signore che sta alle spalle del Presidente della Camera dei Deputati o del Senato, così che versa l'acqua al Presidente, che sposta la sedia al Presidente, figura che non vedo mai quando ci sono collegamenti con gli altri parlamenti europei. Grazie. Uno dei commessi, non so, professor Perotti, abbiamo spiegato che all'inizio guadagna forse come uno stipendio normale, però è la progressione negli anni, no professor Perotti? Sì, sono qui davanti al computer, se andate avanti tra 3 minuti vi do la risposta, perché va bene, ce lo dà tra 3 minuti professor Perotti. Pino dalla provincia di Torino. Sì, pronto. Dica. Ecco, io volevo un attimino contestare la statistica di questi 1.500 euro pro capite su, non so, su, ovvio che immagino che voi media, mettiate, media. È una media. Ecco, io faccio l'impiegato nel comune di Torino da 33 anni. Io oggi supero appena 1.200 euro. Lo so signor Pino, però sa quando le statistiche, però ditelo chiaramente, guardate che quando questo dato, questa media è fasulla. In realtà perché dico fasulla? Che 1.500 euro vuol dire stare bene oggi in Italia per quelle. Ma ho capito Pino, magre, scusi, no, scusi Pino, la media non è fasulla, la media essendo una media vuol dire che lei appunto guadagna meno, ma ci saranno persone che guadagneranno molto di più, quindi queste statistiche bisognerebbe, come giustamente tutto il discorso che state facendo e che mi pare più che legittimo, cominciare a abbassare i mega stipendi, perché io ricordo negli anni 80 ad esempio un dirigente del comune non prendeva le cifre esorbitanti che rispetto agli impiegati che prendono oggi. No, ma questo, su questo lì, sì, per dire, però mi scusi, lei ha una soluzione che è quella che ci pone alla fine, ma non contesti quello che è il dato del dipendente medio di un'azienda italiana, perché è una ricerca che ieri su Panorama è stata proposta da parte di una società di consulenza che ha vagliato 500.000 paghe di lavoratori, hanno fatto la media, sono d'accordo con lei, però ovvio che se io prendo 1.200 sì, e poi da qualche parte un funzionario gli danno 50.000 euro al mese e poi lei mi fa la media con questo ladro, alla fine io rimango, cioè sembra quasi che io stia molto meglio rispetto alla realtà. Ma capisco, ma il dato medio, caro Pino, infatti fotografa una realtà media, che non vuol dire fotografare le realtà poi dei singoli casi, questo è il dato di fatto. Comunque, Patrizio Mazza, allora, l'altro giorno Libero ha raccontato la sua storia, non so perché se la hanno raccontato la sua, per la precisione. Ma questo non lo so neanche io. Quello che tenevo a precisare è questo, la Regione Puglia ha votato una legge a dicembre dell'anno scorso, sì, in cui si aboliva, diciamo, il vitalizio, si aboliva anche l'indennità di fine rapporto. Fino a dicembre c'era questa situazione legislativa. Cioè l'aboliva, ma l'abolisce per il futuro. Quindi lei, che è stato due anni, no, e mezzo. Io sono stato circa quasi tre anni. In regione, avevo maturato certe aspettative. Mi si poneva il discorso, avendo superato 60 anni, sì, di poter integrare per la pensione, quindi il cosiddetto vitalizio. Sì. In pratica io... Cioè spieghiamo, lei ha fatto 3 anni alla regione, è andato a chiedere dicendo: scusate, c'è una legge che ha abolito il vitalizio. Me l'hanno detto. Sì, gliel'hanno detto, cioè gliel'hanno abolito per il futuro, quindi lei aveva fatto 3 anni, doveva colmare i 2 anni, diciamo, sì, per arrivare a maturare il vitalizio da consigliere regionale. I soldi, non ovviamente, che avevo già versato, sì, e quelli che ho dovuto versare praticamente... corrisponde all'incirca 120.000 euro, forse di più, ecco, adesso non lo so. E mi faccia capire, per 5 anni, anche se sono stati 3, ma ha pagato contributi per 5, la Regione Puglia, di quanto vitalizio ha diritto lei? L'importo è sui 2009, credo, qualcosa del genere. Netti? 2009 netti? 2009 netti. Sì. 2009 netti al mese, ecco. Di cui lei può usufruire da subito, pur facendo un altro lavoro, insomma, se è cumulabile con... legalmente, così, avendo superato i 60 anni, ma comunque diciamo che avendo anticipato questi soldi, perché io ho versato questi soldi in anticipo, per cui attualmente... Il cellulare un po' ci abbandona. No, ma lei non ha rubato nulla, è tutto legale. Il problema, come al solito, è che vi vengano rese legali queste cose. A questo proposito, Perotti, intanto è riuscito a recuperare la risposta per Ornella? Non so bene che qualifica abbia la persona che... Credo commesso. Se assistente commesso, quindi c'è assistente parlamentare, all'inizio prende 35.000 euro, dopo 20 anni ne prende 90.000 netti. 90.000 netti l'anno. Cioè netti, poi devi pagarci l'IRPEF, ma da netti da oneri previdenziali, sono 105.000. A fine carriera. Però una cosa interessante è che un consigliere parlamentare ne prende 64.000 all'inizio e dopo 20 anni ne prende 229.000. Dopo 30 anni ne prende 318.000. Vabbè, c'è da dire che Mazzucca, i consiglieri parlamentari sono dei ruoli chiave, no? Mi sembra di capire, Mazzucca, sono quelli che scrivono, di fatto aiutano i parlamentari a scrivere le leggi, però effettivamente sono cifre esorbitanti, no? Sì, in effetti la prima volta che sono arrivato in Parlamento mi sembrava di essere in Svizzera, nel senso che vedevo questi funzionari molto solerti, molto bravi, molto capaci, mi sembrava di essere fuori dall'Italia normale, quindi sono molto bravi, però devo dire che gli stipendi che percepiscono dimostra che sono bravi, perché se no non potrebbero percepire gli stipendi così alti. Beh, oddio, però i 90.000 euro per l'assistente parlamentare, che adesso non penso che versi solo l'acqua, come dice Ornella, durante le sedute, farà anche altro, non credo che sistemerà la sedia e verserà l'acqua. Oppure sì, Mazzucca, cosa fanno questi commessi? Fanno altro di imprescindibile? I commessi hanno una bellissima livrea, versano l'acqua e sono l'ingresso, non fanno entrare le persone non autorizzate dentro la camera, e poi stanno all'ingresso anche della camera. Ricevono gli ospiti, ma mi sembra che fanno questo, non è che è un grandissimo lavoro, ecco, però, per quanto riguarda i commessi. Ma chi sono? Cioè, come si fa a fare? Come si fa a entrare? Perché ci saranno italiani che vorranno mandare un curriculum, assolutamente. Non lo so, però ecco, volevo sottolineare ancora una cosa. Noi ci polarizziamo la nostra attenzione sulla Camera, sul Senato, perché sono un po' al centro dei riflettori, però ricordiamoci che i veri scandali sono fuori, perché scandali ancora più grossi, perché per esempio, diceva prima, il consigliere regionale pugliese prende quasi 3.000 euro 2009. 2009. Infatti, è, ma cosa, è il doppio di quanto prende un vitalizio un parlamentare dopo 5 anni. Infatti il problema è questo, e voglio ripartire da qui dopo l'informazione sul traffico, con Mazza, con Mazzucca, con anche Perotti, la cifra ed è questa: è possibile, cari italiani, un sistema legale, tutto legale, che porti il dottor Mazza ad avere in maniera legale 2.900 euro di vitalizio, quindi di pensione, dopo aver fatto per 5 anni il consigliere regionale nella regione Puglia? Allora, eccoci qua. Per carità, dottor Mazza, noi non la vogliamo mettere in croce, lei è qui a parlare, ripeto, non ruba un centesimo, la legge consente questo, ma lo chiedo intanto a lei, primo diretto protagonista, come trova questo? Su questo le posso anche dar ragione, però le faccio alcune cose, considerazioni che vanno fatte. Sì. Dunque, consigliere regionale comporta, non come la legge nazionale, essere eletti veramente dal popolo, perché devono scrivere nome e cognome. Questo è vero. Ecco, devono scrivere nome e cognome, quindi sì. Uno diventa parte della casta, però è scelto dal popolo. Io ho una vicenda particolare, perché ho dato le dimissioni anzitempo dalla casta perché non mi consideravo fuori ruolo, nel senso che le cose che dicevo tanto non venivano ascoltate, dicevo delle cose sacrosante, insanità di cui mi sono sempre occupato, per cui messo in minoranza, pure facendo parte della minoranza su certe decisioni, su certe cose, ho detto torno a fare il mio mestiere che facevo e ho dato le dimissioni anzitempo. Ma le dico di più, io non essendo allineato sulla questione dei partiti eccetera, la campagna elettorale l'ho pagata io. Se io devo dire che in questa vicenda mi ha comportato un qualche cosa di guadagno, guardi, le dico, io ho rimesso professionalmente, e quindi diciamo chi viene scelto in questo caso dal popolo, sì, che può essere qualcuno di esperienza. Però dottor Mazza, ma perché tutti questi che fanno politica ci rimettono, ma perché? Cioè chi la obbliga a fare politica se ci rimette? Continuando in questa maniera come stanno facendo, riempiranno i parlamenti regionali e nazionali di gente che non sa fare nessun mestiere, salvo qualche eccezione. Però lei mi definisce questa con la qualità, sì, del no, Parlamento. Lei faccia un po' un conto se l'Italia deve essere gestita e in qualche modo portata avanti da una qualità di Parlamento di questo tipo. Però Mazza, mi scusi, lei come, con un aggettivo sinceramente, come definisce il fatto di poter usufruire di 2.900 euro di vitalizio dopo 5 anni? Io dico che questo ovviamente non va bene, ma nel discorso globale avrebbero dovuto poter dire sul piano professionale tu una gratificazione, perché se tu ti togli professionalmente da un lavoro per degli anni, quel lavoro poi lo puoi scordare. Io infatti a un certo punto ho detto: o mi tenete in ruolo e mi fate fare qualcosa di cui io so fare anche politicamente, oppure torno a fare il lavoro, perché sennò perdo. No, ma è chiaro, diciamo, il problema è che lei è tornata adesso a fare il suo lavoro, ma anche cumulando questa pensione. Non so, Perotti, lei calcoli alla mano come la possiamo paragonare? Cioè, per ottenere una pensione da 2.900 euro un lavoratore quanto dovrebbe lavorare? Ma dopo cinque anni di contributi? Sì. Non lo so, credo. Beh, dipende dal lavoro che fa, ma insomma, sì, un'intera vita lavorativa, ovviamente. Dipende dal suo salario. Ma. Invece, come lo giudica lei un 2.900 euro? Beh, chiaro, no, che è tutto in rapporto allo stipendio. Lo giudica? Io adesso sto studiando proprio le spese delle regioni, mi sono fatto dare i bilanci di tutti i consigli regionali di tutte le regioni italiane dal 2011 adesso, e purtroppo nonostante la riforma del governo Monti e altre riforme, purtroppo la spesa totale delle regioni continua a aumentare. Non solo, ma quando il governo Monti ha posto un limite di 11.000 circa euro alla remunerazione delle regioni, quello che alcune regioni hanno fatto, hanno ridotto le indennità che sono tassabili, hanno aumentato i rimborsi spese a forfè, che sono di fatto un reddito non tassabile, perché uno non deve sottoporre nessuna documentazione, e alla fine il reddito netto di tasse dei rappresentanti regionali, dei consiglieri regionali, addirittura aumentato in alcune regioni dopo la riforma Monti. Ma sì, leggevo questo dato sul secolo XIX, l'abbiamo citato già nei giorni scorsi, caro Mazzucca, nella regione Liguria, che è anche un'altra regione dove i consiglieri alcuni sono indagati, le spese dei gruppi consigliari, cioè non del consiglio regionale, della giunta, dei gruppi consigliari per un anno valgono come 180 stipendi del lavoratore ligure medio, sempre medio. Mazzucca, ha sentito, Mazza dice, insomma, ci ho anche rimesso professionalmente, forse anche economicamente, e poi io sono stato scelto a differenza dei parlamentari. Con questa legge elettorale, sì. Speriamo che poi cambi la legge elettorale anche per i parlamentari. No, il discorso, secondo me, ci sono due punti da far riflettere. Uno, al di là dei costi dei singoli parlamentari che sono alti, eccetera, è l'utilizzo di come vengono utilizzati questi parlamentari, perché sono utilizzati malissimo. Soprattutto i parlamentari che vengono dalla società civile, che hanno raggiunto certi livelli nel giornalismo, come militari, come ex prefetti, eccetera, che potrebbero fare delle cose egregie in Parlamento, come lo stesso dottor Mazza in regione, poi non sono utilizzati per quello che sanno fare, vengono messi in un angolo, i politici di professione fanno il vuoto attorno a questi elementi che vengono dalla società civile, e questo è il vero scandalo. Sì, il vero scandalo è anche questo. Fatemi sentire anche un altro ascoltatore, se ce la facciamo. Michele da Milano. Michele, buongiorno. Michele sta lavorando, dica. Buongiorno, volevo interagire se possibile col professor Perotti, sì. Perché per questo scandalo dei vitalizi e quant'altro tutti quanti si appellano al fatto di dire è un diritto acquisito, non si può fare nulla. Non è vero, nella Costituzione c'è scritto che un buon padre di famiglia si deve comportare, un buon amministratore si deve comportare come un buon padre di famiglia, quindi se non hai soldi, e noi non li abbiamo chiaramente, si possono semplicemente sospendere. E vediamo, interessante, professor Perotti, ho 30 secondi, questa questione dei diritti acquisiti, è vera? Sfondo una porta aperta, secondo me la scusa del diritto acquisito è la scusa per non fare niente, e dico di più, la scusa del diritto acquisito tipicamente viene tirata fuori dalla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale è il vero grande scandalo dell'amministrazione pubblica italiana, perché i consiglieri costituzionali prendono il doppio, il triplo, dei loro equivalenti inglesi e americani, che non sono certo dei fannulloni, hanno dei privilegi pazzeschi. Così, professore, ci facciamo amici anche i 15 giudici costituzionali dell'amministrazione italiana. Va bene. Intanto, guardi, è un tema, visto che sta studiando i dati delle regioni, è un tema sul quale torneremo. Ringrazio davvero tutti. Certo che chissà Ornella, me la vedo a casa, se ha una figlia, se ha un figlio, pensare 30.000 euro per versare l'acqua e spostare la sedia, il commesso alla Camera, e poi 90.000 euro a fine carriera. Vabbè, ci troviamo lunedì prossimo alle 6.30, buon weekend. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.